Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Tra le cose che ci sono state oggi, voglio ricordare questa valutazione da parte dell'OMS che ha ricordato come il nostro paese stia reagendo energicamente alla epidemia e che ha messo in campo misure di contenimento adeguate. Queste le parole, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del commissario straordinario all'emergenza coronavirus Borrelli, Angelo Borrelli, che ogni giorno dalla Protezione Civile con una conferenza stampa fa il punto sulla situazione in Italia con il bollettino, e oggi ha aggiunto anche che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto i complimenti al nostro paese per come sta reagendo, per come sta funzionando e sta tenendo il sistema sanitario nazionale e anche per le misure di contenimento piuttosto drastiche prese. E oggi è stato anche un consiglio europeo dei ministri della salute dove è stato detto da un commissario europeo alla salute bisogna guardare all'Italia che diventa un modello, perché prima o poi insomma ci dobbiamo preparare tutti per quanto riguarda il resto dei paesi europei. Infatti ci sposteremo anche sugli altri paesi e anche negli Stati Uniti, dove addirittura a New York ci sono 4.000 in quarantena, anche se probabilmente una quarantena come hanno fatto tanti volontaria, senza contagi, però insomma giusto per fare un po' il giro del mondo. E poi ci occuperemo di politica, perché adesso il Consiglio dei Ministri sta per varare un decreto molto importante, un piano per la sanità con tanti aspetti interessanti. E poi soprattutto ci sarà questa sera ospite di Effetto Notte Massimo Galli, primario del Sacco di Milano, un professore, un luminare, al quale ci sono tante domande da fare per fare un po' il punto sulla situazione, sui dubbi, sulle domande. Per i vostri commenti, domande, riflessioni, sempre pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Seguite il Twitter in diretta di Effetto Notte durante il giorno per alcune anticipazioni. Il Twitter, lo sapete, è Roby con la Y Linetta Giordano. Coronavirus all'esame del Consiglio dei Ministri, un piano per la sanità, reparti temporanei, possibilità di requisire alberghi per ospitare le persone in quarantena, incentivi per la produzione di mascherine e 20.000 assunzioni tra medici e infermieri. Il ministro Speranza intanto chiede maggiore coordinamento europeo. Covid-19 nel mondo, boom di contagi in Francia, 4.000 persone in quarantena a New York, superati 100.000 casi a livello internazionale. L'OMS ringrazia l'Italia e spiega che non è scontato che il virus scompaia con l'estate. Mercati venerdì nero per le borse europee, Moody's ora vede l'Italia in recessione. La guerra in Siria e la tragedia dei profughi, il presidente turco Erdogan alla cancelliera Merkel dice serve un nuovo accordo con l'Unione Europea, le intese del passato non funzionano più. L'addio del capitano ultimo all'arma, ci ho pensato tante volte, dice l'uomo che arrestò Totò Riina, ora non ho nulla da dire. Sport, anche il ciclismo si ferma, niente Milano-Sanremo, stop allo sci a Cortina e alla Formula E a Roma. Partiamo quindi dagli aggiornamenti, come sempre, della Protezione Civile sui casi in Italia. Sono 3.916 i malati per coronavirus nel nostro paese, con un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri e 197 i morti, 49 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa appunto alla Protezione Civile. Sono 523 i guariti da coronavirus, 109 in più rispetto a ieri, e sono 462 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 111 in più rispetto a ieri. E sentiamo anche che cosa ha detto Angelo Borrelli sulle zone rosse. Il Comitato Tecnico Scientifico sta analizzando le informazioni, i dati, e per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Quindi si valuterà domani, anche di questo parleremo col professore, col primario dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. Intanto al vaglio del Consiglio dei Ministri c'è un piano straordinario per la sanità, che tra l'altro prevede reparti temporanei per la terapia intensiva, possibilità di requisire degli alberghi per ospitare le persone in quarantena, degli incentivi per la produzione di mascherine e almeno 20.000 assunzioni tra medici e infermieri, inoltre norme per sospendere i processi meno urgenti e garantire la sicurezza nei tribunali. Sarà poi invece un ulteriore provvedimento a occuparsi degli aiuti a imprese e famiglie, che arriverà però solo la prossima settimana dopo che il Parlamento avrà approvato la relazione con cui il governo ha chiesto di aumentare il deficit previsto per quest'anno dal 2,2% al 2,5% per finanziare le misure. Di tutto questo parleremo anche dopo, e così anche del fronte politico che fa sentire la voce. Dopo l'appello del Quirinale, governo e opposizione cercano l'intesa, ma le cifre divergono. Il governo pensa ad uno stanziamento di 7,5 miliardi di risorse per l'emergenza coronavirus. Per l'opposizione però è troppo poco. Matteo Salvini della Lega chiede un piano da 30 miliardi e vuole un incontro con il premier Giuseppe Conte. Ci comporteremo in aula conseguentemente a quanto verremo coinvolti in decisioni fondamentali per il Paese. Speriamo di costruire questo percorso insieme, anche perché le vicende più squallide sono quelle della concorrenza sleale e commerciale ai confini dell'Italia. La consapevolezza della difesa nazionale è di prima istanza anche per il governo, così Luigi Di Maio. La cosa che ho ribadito a tutti i paesi europei è che l'Italia merita rispetto da tutte le parti del mondo. Stiamo ricevendo alcune segnalazioni da aziende, perché ci sono dei paesi che chiedono il bollino virus free su prodotti made in Italy, e questo è inaccettabile. Ancora tutto da stabilire quindi in vista del voto sullo scostamento del deficit, che deve essere approvato dalla maggioranza assoluta, inclusa quindi l'opposizione. E su questo si giocherà l'intesa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, a proposito di politica, in qualche modo collegata, in notizia di questi istanti, vi leggo questo dispaccio di agenzia: in questo istante un poliziotto della scorta di Matteo Salvini risulta positivo al coronavirus, lo confermano fonti della Lega. Si tratta di un uomo della scorta della seconda auto, quella che accompagna la vettura dell'ex ministro. Le stesse fonti precisano che il segretario si trova in ottime condizioni fisiche, che eventualmente è disponibile a sottoporsi al tampone. Vedremo poi. Piazza Affari intanto chiude in profondo rosso, il FTSE MIB lascia sul terreno il 3,5%, in due settimane brucia 95 miliardi, crolla l'Europa in due settimane in fumo 1.300 miliardi, Wall Street apre in calo poi peggiora, l'economia italiana è probabilmente in recessione secondo l'agenzia Moody's, che prevede una contrazione del prodotto interno lordo nel primo trimestre. E tagliando nello scenario di base dell'evoluzione del coronavirus a meno 0,5% la stima di crescita per il 2020 dal precedente più 0,5%. Nello scenario peggiore la stima arriva a meno 0,7%. Per l'agenzia di rating salgono i rischi di recessione globale. Intanto in Europa sono anche in Francia e Germania sotto osservazione un nuovo caso di una nave da crociera con contagiati a bordo, questa volta in Thailandia, e poi più coordinamento europeo che chiede Bruxelles. Solidarietà, coordinamento e scambio di informazioni, ma ancora poche misure concrete per rafforzare la cooperazione in Europa contro il coronavirus. Il vertice straordinario dei ministri della salute e comunitari produce qualche passo in avanti nell'emergenza, mostrando però tutta l'evidenza degli scarsi poteri in materia dell'Unione. This is a time for global solidarity. Servono una cooperazione globale in Europa e un livello di comunicazione più stretto tra paesi, ha affermato la commissaria alla salute Kyriakides, che ha evidenziato un trend di infezioni in rapida crescita. Il commissario per la gestione delle crisi Lenarčič ha invece portato come esempio la reazione italiana, invitando gli altri paesi a studiarla e soprattutto a prepararsi. Ma a tenere banco è stato il caso mascherine. Le autorità europee non sono riuscite a convincere Francia, Germania e Repubblica Ceca a eliminare il bando sull'export di mascherine e materiale protettivo. Il ministro della salute tedesco Spahn ha dichiarato che le aziende teutoniche possono fare richiesta di esportazione. Il francese Véran ha respinto le accuse di protezionismo. All'Europa non resta così che esercitare un ruolo di moral suasion, accompagnato da una procedura di acquisto comune già avviata, ma che non darà i suoi frutti fino ad aprile. L'italiano Speranza lancia l'appello a non farsi la guerra tra paesi membri e invoca una vera solidarietà europea. Mi pare che da questa riunione arrivi un messaggio di maggiore consapevolezza. Bisogna rendere concreto subito questo livello di coordinamento. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un centinaio di scuole chiuse nel dipartimento dell'Alto Reno. La Francia corre ai ripari dopo l'impennata di casi di coronavirus nel nord-est del paese. 81 in sole 48 ore. Ci sono timori, in particolare per un raduno evangelico che si è svolto a febbraio nella città di Mulhouse, dove potrebbero essere stati contagiati fra i 500 e gli 800 fedeli. La Germania, dove i casi confermati sono poco meno di 600, ha ammesso di avere focolai come in Francia e in Italia. A livello mondiale ha superato quota 100.000 il numero dei contagiati, l'80% in Cina, le vittime sono quasi 3.400, a crescere è anche il numero delle persone guarite, oltre 55.000. In Thailandia le autorità hanno impedito l'attracco della nave da crociera Costa Fortuna. Il comandante ha fatto sapere che stanno tutti bene i 173 italiani a bordo. Negli Stati Uniti, invece, un'altra nave da crociera è stata bloccata a largo di San Francisco dopo la segnalazione di alcuni casi sospetti fra passeggeri ed equipaggio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha nominato commendatore al merito il comandante della nave Diamond Princess, vi ricordate che era rimasta in quarantena per lungo tempo in un porto del Giappone a Yokohama, che per ultimo è sceso dalla nave che era in quarantena. Restiamo all'estero, tregua della mezzanotte in Siria, ma resta sempre critica la situazione migranti al confine tra Grecia e Turchia. Scatterà mezzanotte in Siria il cessate il fuoco nella regione nord-occidentale di Idlib, ormai allo stremo per i pesanti combattimenti tra le forze del regime siriano appoggiato dalla Russia e i ribelli jihadisti sostenuti dalla Turchia. La tregua, ancora molto precaria, è frutto di un negoziato a Mosca tra il presidente russo Putin e il suo omologo turco Erdogan. Oltre al silenzio delle armi, l'accordo prevede un corridoio di sicurezza di 6 km lungo l'autostrada M4 e pattugliamenti congiunti russo-turchi a partire dal 15 marzo. Stando a quanto riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, in giornata le aviazioni di Russia, Siria e Turchia non erano presenti nei cieli di Idlib, a differenza delle ultime settimane. Sul volo di ritorno da Mosca, il presidente turco Erdogan è tornato ad accusare la Grecia di brutalità verso i migranti che spingono dalla Turchia verso i suoi confini, smentito da Atene. Ne hanno uccisi 5, ha detto Erdogan, il quale, si apprende, in una telefonata ha chiesto alla cancelliera tedesca Merkel una revisione degli accordi UE-Turchia sui migranti che, secondo lui, non funzionano più. Intanto non cessano gli scontri al confine tra Turchia e Grecia. In mattinata la polizia di frontiera di Atene ha sparato gas lacrimogene con cannoni ad acqua contro chi cercava di oltrepassare la frontiera. Stessa cosa, dicono i media locali, da parte degli agenti turchi verso il lato greco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sulle notizie italiane. Cronaca, il colonnello Sergio De Caprio, il capitano ultimo che arrestò Totò Riina, si congeda con un tweet d'allarma dei carabinieri. Da carabiniere dopo 42 anni di servizio dice: pensavo chissà cosa, dirò quando lascerò, poi ti ci trovi e non dici niente. Scrive: De Caprio è in aspettativa dopo essere stato nominato assessore alla Regione Calabria, ma tra un anno dovrà comunque lasciare l'uniforme per limiti di età. E torniamo sull'omicidio Vannini. Se fosse stato soccorso, Marco non sarebbe morto. Questo scrive la Cassazione. Una posizione, quella della Cassazione, che motiva la decisione del 7 febbraio scorso, che ha disposto l'appello bis per Ciontoli, la cui pena era stata ridotta in precedenza da 14 a 5 anni ai suoi familiari. I giudici di Piazza Cavour fanno loro quanto già assodato dai medici, ovvero il ventenne romano la sera del 17 maggio del 2015 sarebbe potuto sopravvivere se fosse stato soccorso in tempi opportuni. La morte di Marco Vannini, si legge nelle motivazioni della Cassazione, sopraggiunse dopo il colpo di pistola ascrivibile soltanto ad Antonio Ciontoli, che rimase inerte ostacolando i soccorsi, e fu la conseguenza sia delle lesioni causate dallo sparo che della mancanza di aiuti che certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l'effetto infausto. In primo grado Ciontoli fu condannato a 15 anni di reclusione per omicidio, in appello invece l'omicidio fu riqualificato come colposo e tra le proteste dei familiari di Vannini per Ciontoli la pena scese a 5 anni, quindi a febbraio la decisione della Cassazione ed ora il nuovo processo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vigilia di 8 marzo, tra due giorni la giornata internazionale della donna. Nonostante numeri sempre preoccupanti su violenze e femminicidi, vogliamo raccontare storie di donne che ce la fanno e ritrovano la strada. Questa è l'anticipazione del reportage in onda domenica alle 8.15 su Radio 24. Una donna su tre nel corso della vita è vittima di violenza fisica o sessuale. 8 donne su 10 conoscevano il proprio assassino. Nel 55% dei casi l'omicida è il compagno o l'ex. La maggior parte delle vittime sono al nord e gli omicidi scendono, ma non quelli che hanno per vittime le donne. I numeri Istat ribadiscono una situazione ben nota. I femminicidi e la violenza contro le donne sono un'emergenza nazionale, ma ci sono donne che nonostante tutto ce la fanno. donne che grazie al sostegno e all'appoggio ritrovano quella forza che avevano perso, così ci spiegano Vera e Claudia, che sono state mesi in case rifugio. Io rivolgermi ad un'associazione ha potenziato il mio grado di consapevolezza su quello che mi stava accadendo, su come questa violenza aumentasse e su come gli episodi si restringessero. Il primo passo è raccontare, anche se la persona davanti a te ti crede o non ti crede, non fa niente. Racconti, parli e avrai la forza, perché la forza ce l'avevo già prima, ma l'ho persa. Come loro, ogni anno 500 donne si affidano alla casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano. Oltre il 90% riesce a uscire da maltrattamenti e soprusi. Il consiglio è chiedere aiuto, perché la violenza non deve rimanere una questione privata, ci raccontano. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere lo sport, con altre cancellazioni e rinvii a causa dell'emergenza, tocca anche al ciclismo fermarsi. Un venerdì di cancellazioni e sacrifici per lo sport italiano, che paga un prezzo altissimo all'emergenza coronavirus. In rapida sequenza, rinviata data destinarsi Tirreno Adriatico e soprattutto Milano-Sanremo, la classicissima di primavera, uno dei monumenti del ciclismo, che dovrà rinunciare anche alla Coppa Bartali e al Giro di Sicilia. Poi la doccia fredda sulle finali di Coppa del Mondo di sci in programma a Cortina dal 16 al 22 marzo e sulle quali si era lavorato a fondo per evitare la cancellazione. Decisivo il no secco di tutte le federazioni tranne l'italiana davanti all'ipotesi di sciare a porte chiuse. Cancellato il Gran Premio di Formula E a Roma, sospesi fino al 15 marzo tutti i campionati di rugby. Nella pallanuoto c'è una squadra, la Lazio, che si rifiuta di viaggiare a Brescia. A Cagliari si è giocata la prima giornata d'Italia-Corea del Sud di Coppa Davis, 2-0 per gli azzurri in un clima spettrale. E poi c'è il calcio, che domenica prova a ripartire facendo i conti con misure di prevenzione rigorosissime: termoscanner per tutti gli autorizzati ad entrare negli stadi, cerimoniale ridotto all'osso, niente interviste flash e limitazioni sul lavoro nel post partita e a bordo campo. Così si giocherà anche Juventus-Inter. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, e con questo finisce, chiudiamo la sintesi della giornata, in modo che tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, possiamo cominciare con gli ospiti ad approfondire gli argomenti in primo piano. Ci sarà subito, dobbiamo raggiungere il primario dell'ospedale Sacco, Massimo Galli. Vedo già diverse vostre domande, ne ho tantissime da fare anch'io, vediamo se riusciamo a fare una sintesi e a farne diverse di domande per avere molte risposte. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchissimi come sempre, Roberta Giordano con voi a riempirli di tante notizie. La sintesi della giornata avete sentito all'inizio e poi gli aggiornamenti in diretta, gli ospiti tra poco ad approfondire, ad affrontare i temi principali. Fra le notizie su cui vi ho aggiornato in tempo reale è quella che un poliziotto della scorta di Matteo Salvini, leader della Lega, risulta positivo al coronavirus, lo confermano fonti della Lega. Adesso Salvini si è detto disponibile, se necessario, a sottoporsi al tampone. Poi le altre notizie, lo sapete, per lo più sono appunto tutte legate, collegate a questo tema, l'epidemia di coronavirus in Italia e nel mondo, con i mercati per i quali c'è stato un venerdì nero, e poi c'è anche la guerra in Siria, la tragedia dei profughi con questa continua lotta tra la Turchia, la Grecia che respinge a sua volta i migranti. L'addio del capitano ultimo all'arma, ha detto ci ho pensato tante volte, ha detto l'uomo che ha arrestato Totorina, poi dice ora non ho nulla da dire. Poi lo sport, anche il ciclismo si ferma, niente Milano-Sanremo, stop però anche allo sci a Cortina e alla Formula E a Roma. Vedo già molti vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, che è il numero per SMS WhatsApp. Avete sentito quindi nella prima parte di Effetto Notte le notizie, tra le notizie più importanti naturalmente, tutti gli aggiornamenti anche della protezione civile relativi all'epidemia di coronavirus in Italia. Abbiamo detto per il momento, come ha detto il commissario straordinario Angelo Borrelli, sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri, 197 i morti, 49 in più, tutti per lo più con malattie pregresse e di età abbastanza piuttosto avanzata, poi 523 guariti, 109 in più di ieri, e 462 malati in terapia intensiva. Subito saluto, ed è un onore naturalmente averlo qui a Effetto Notte, Massimo Galli, che è responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive all'Ospedale Sacco di Milano. Professor Galli, buonasera. Buonasera a voi. e grazie della disponibilità. Senta, a proposito di questi dati, probabilmente c'era stato un fraintendimento con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità oggi, che aveva detto una cosa che aveva un po' allarmato. Sembrava che si valutasse da parte del comitato scientifico, tecnico scientifico voluto dal governo e dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, di fare di tutta la Lombardia una zona rossa. Invece poi poco fa ha detto no, non facevo riferimento alla Lombardia come area che può diventare interamente zona rossa, mi riferivo alla valutazione delle misure da prendere in generale nella regione come nelle altre zone a rischio. Cosa pensa lei di questa situazione intanto, professor Galli? Ma senta, se apro il tabellone della John Hopkins University, quello che guardiamo noi regolarmente, che dall'aggiornamento nel mondo ne trovo 4.636 con 197 deceduti e 523 guariti. La John Hopkins è molto più, come dire, abile a ascoltare i dati e molto più diretta talvolta anche delle nostre agenzie ufficiali, e questa situazione ci sta ponendo fortunatamente, direi, con la medaglia di legno, perché siamo sotto il podio dopo la Cina, dopo la Corea, dopo l'Iran, veniamo noi come numero complessivo di casi. E il dato di fatto è che questi casi sono l'espressione di qualche cosa che avviene almeno dalla fine di gennaio sotto traccia nel nostro paese. Vorrei innanzitutto che tutti gli ascoltatori capissero che non si tratta di un incremento di casi dovuti a casi di persone che si sono infettate tra ieri e oggi, ma è l'espressione di quanto è andato a evidenziarsi, ad avere sintomi, a partire da contagi, diversi dei quali risalgono addirittura ai primi giorni di febbraio, con ogni verosimiglianza. La situazione in Lombardia, e direi la situazione in Italia in generale, insomma, non si può negare che da una parte i nostri ospedali sono estremamente sotto stress, negarlo sarebbe direi perlomeno un'inesattezza, che i nostri ospedali sono assolutamente già pieni di pazienti, che tocca trovare un sistema per una gestione fuori dall'ospedale delle persone che hanno l'infezione e che non possono essere quarantenate in casa. Non perché io paventi il fatto che queste persone possano essere avere dei problemi di decorso negativo, cioè ammalarsi seriamente. La gran parte delle persone che sono dimissibili in questo momento dal punto di vista clinico dagli ospedali probabilmente avranno un decorso che si vedrà completato senza particolari problemi fisici, e così anche la gran parte delle persone che non vengono ricoverate perché non hanno una situazione clinica preoccupante. Abbiamo visto che la stragrande maggioranza delle persone con questa infezione guarisce. E questo è un dato sicuramente e positivo. Soprattutto i giovani adulti, soprattutto le persone senza altre malattie intercorrenti, e non parliamo dei bambini che praticamente quasi nemmeno danno segno di essersi infettati. E questo ci rasserena. Professor Galli, tranne rari casi, ma sono proprio rari. Però per esempio Maurizio chiede, ma i 45 morti di coronavirus, o quelli o di più in realtà, dice, sono morti per coronavirus o con coronavirus? Perché sa che si sta facendo questa differenza. Allora, nel senso sempre che realtà... guardando quel famoso tabellone, io ne trovo 197 di morti con coronavirus o per coronavirus in Italia. La mia personale esperienza, avendo vissuto questi ultimi giorni praticamente fisso in ospedale, in realtà, come succede ai vecchi professori come me, più ad occuparmi di problemi organizzativi che direttamente a curare i malati, però con un'attenzione, come vi potete immaginare, molto forte su come andavano le cose e sulle discussioni con i miei collaboratori, cosa e come meglio fare per cercare di cavare dei guai tutta una serie di persone. Bene, diverse delle persone che sono purtroppo mancate da noi sono persone che avevano patologie molto serie, qualcuno addirittura con una limitatissima aspettativa di vita, no? Però mi dispiace dire sarebbero morti rapidamente comunque, perché qualsiasi essere umano da questo punto di vista non è cosa di nessun interesse, no? Certo, non è che perché uno ha una serie di patologie pregresse è, detto alla milanese, fuffa, qualcosa di cui non ci dobbiamo occupare. Questa malattia ha dato il colpo di grazia a una serie di persone che avrebbero avuto comunque una breve aspettativa di vita, ne ha uccise altre che ne avrebbero avuta una decisamente più lunga, ma che comunque erano già piuttosto malmesse, ne ha uccise poche, anche da noi, che non avevano nessun motivo per andare all'altro mondo così presto. Professor Galli, il fatto che si dica adesso... sono molto poche queste. Tra poco poi parlerò anche con altri corrispondenti dall'estero, anche della situazione in altri paesi, ma lo vogliamo dire di nuovo che ci sono tanti casi in Italia, perché è una situazione specifica la nostra o sempre per il fatto che sono stati fatti tanti tamponi all'inizio? Non vorrei essere inelegante utilizzando una parola che non si può dire o non sarebbe meglio non dire in radio. Dico sfortuna, non dico un'altra cosa che comincia sempre con essere. Con esse, sì. Ecco, il concetto è che noi ci siamo trovati sotto traccia qualcuno che è arrivato con l'infezione, che non aveva idea di poterne avere, che l'ha disseminata sotto traccia, e ce ne siamo potuti rendere conto soltanto quando i casi clinicamente destinati a aggravare sono andati a maturazione più o meno tutti assieme. E allora ci siamo accorti che avevamo la volpe nel pollaio, con tutto rispetto, non voglio... pollo io per primo, per capirci, anche pollo due volte, perché guardi, ero convinto fino al 20 sera che ce la fossimo scapolata. Fino al 20 febbraio? Che tutti gli interventi che avevamo posto in atto per arginare il problema ci avessero messo nella condizione di saltarne fuori. Ma non è stato così. Non è stato per niente così, e sono il primo ad essere estremamente, come dire, costernato per quello che è accaduto. E delle misure di contenimento adesso, di adesso, professor Galli? Spero che bastino. Spero che bastino, però voglio ricordare che i provvedimenti presi a Wuhan, quando i numeri non erano tanto diversi dai numeri attuali dell'Italia e della Lombardia, sono stati molto più drastici dei nostri. Professore Angelo D'Alecco dice: sono un trapiantato di rene, vorrei chiedere al professore quali sono i pericoli che corrono in questa situazione. E non c'è statistica chiara in questo senso, però lui sicuramente, dovendo essere necessariamente immunodepresso, potrebbe trovarsi in problemi maggiori degli altri. Quindi attenzione ad andare in giro, mascherine e prudenza in questo periodo, non passa la nottata. Chiaro. A proposito di mascherine, al di là che ci sia tutta questa polemica anche con l'Europa, con i paesi che non vogliono aiutare l'Italia, quindi la solidarietà europea che viene un po' a mancare, poi ne parleremo anche dal punto di vista politico con l'analista, la commentatrice politica, no? Però c'è anche un ascoltatore, diversi ascoltatori che dicono, ma insomma se si andasse tutti in giro con queste mascherine, forse, visto che si passa questo contagio con le goccioline della saliva, sarebbe una misura in più, contenitiva, protettiva, però molti esperti, professore, allora, dicono che non servono queste mascherine. No, non è, in realtà sarebbe quasi come dire una dimostrazione di presa coscienza sicuramente, ma dal punto di vista dell'utilità io credo che sia importante che utilizzino le mascherine, non so, pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio che hanno costante contatto per tutto il santo giorno con il pubblico, ad una distanza che diventa difficile da rispettare di un metro o più per stare tranquilli. Che è importante che eventualmente si decida di utilizzarlo chi deve per forza, per lavoro o altro, trovarsi in situazioni in cui ci può essere dell'affollamento. Anche se francamente... il modo per diradare la concentrazione delle persone, secondo me, sia il pubblico che il privato, a questo punto lo deve trovare per toglierci un po' tutti, comunque per tenerci un po' tutti più lontani dai guai. Professore, l'OMS... come da disposizione governativa, peraltro. Oggi l'OMS ha ribadito che non è garantito che questo virus sparisca come le altre influenze in estate. Lei cosa ne pensa, professor Galli? È che purtroppo l'OMS ha ragione. Questo è un virus nuovo, nessuno è immune, tranne forse quelli guariti, mi auguro di sì. E questo vuol dire che non gliene può importare di meno del fatto dell'inverno come per l'influenza stagionale, che è favorita da circostanze anche climatiche. Certamente la cosiddetta perfrigerazione, parolone che vuol dire il prende a freddo, da sempre si sa che aiuta, ahimè, non noi, ma alcuni virus ad attecchire meglio. Però ovviamente deve esserci in giro, il virus in giro, perché questa cosa sia possibile. Quindi prendere freddo non fa bene, ma che un virus nuovo decida di togliersi di mezzo giusto perché fa un po' più caldo e la gente si concentra un po' meno in locali chiusi, già adesso l'indicazione è non concentrarsi in locali chiusi, quindi da questo punto di vista le cose cambierebbero poco. Ricordo che la prima ondata della spagnola, della famosa influenza del 1918, fu a primavera, e che la pandemia da H1N1 del 2009 ci ha interessato in ottobre, in realtà, come picco. Per cui tutto quel che è nuovo si comporta un po' come gli pare, un po' cogliendo la finestra di opportunità che trova. Chiaramente. Professore, per il vaccino vedevo che c'era una valutazione del presidente di Federfarmacie, che dice che il vaccino potrebbe costare 900 milioni di dollari tra lo studio, la ricerca, la sperimentazione, una cifra che a noi sembra folle, ma evidentemente... A me sembra poco. Ah, sembra poco a lei. Guardi che praticamente ogni farmaco che arriva sul mercato costa almeno $1 billion. Ogni farmaco che arriva sul mercato, sto parlando di farmaci di una certa portata e di importanza, finisce per una storia e per quell'altra per costare circa $1 billion, se non di più. Tra gli 800 milioni e il 1,2 miliardi. Quindi francamente non mi stupisce che tutta la ricerca necessaria per avere rapidamente un vaccino possa avere un costo di questo tipo. Per chiudere, professore, c'è notizia di un nonnetto di 101 anni che in Cina è guarito. Questo ci dà speranza per chiudere? Quindi... Mi mette allegria e mi dà speranza. Bene. Sicuramente sì, a dimostrazione che questa è una malattia che tutto sommato per fortuna uccide poco. Più di quanto basta però per essere considerata con serietà, e per favore finiamola di fare i paragoni con l'influenza stagionale. A me non è mai capitato in 42 anni di professione come infettivologo e in 44 anni di laurea di vedere quello che sta succedendo in questo momento nei nostri ospedali per colpa di una malattia infettiva. E se lo dice lei, professor Massimo Galli, grazie allora. Buon lavoro, buona continuazione. Grazie professore. Buonasera a tutti. Grazie. Ricordo primario dell'ospedale Sacco di Milano. Ci prendiamo questa pausa di respiro, di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi. C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure inviateli via SMS o WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ve lo devo dire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, che vi accompagna tutte le sere dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, attraverso questo ginepraio di notizie infinite che ci sono, cercando di raccogliere in qualche modo, dargli un ordine per la serata. Poi da quando è scoppiato il coronavirus e l'epidemia, insomma, veramente mi girano gli occhi. Però poi l'importante, insomma, è fare un'informazione che possa essere utile, il più possibile fondata, insomma, sia sulla cronaca, sul parere degli esperti, sul parere delle istituzioni. Avete appena sentito il professore Massimo Galli del Sacco di Milano. Adesso ci sposteremo invece sulla politica, sulle misure che la politica sta adottando in Italia. Già lo sapete, abbiamo parlato molto in questi giorni, dalla chiusura delle scuole a questi piani straordinari di sostegno economico, ma anche poi di logistica, di contenimento, eccetera eccetera. Vedo tra l'altro, fra gli aggiornamenti, che a proposito invece dello sport, con tutte le annunciazioni annullamenti e i rinvii che avete sentito, il ministro dello sport Spadafora chiede che le TV trasmettano, vediamo se lo rivedo, era qua se non sbaglio, che trasmettano in chiaro le partite. Lui dice, anzi no, Spadafora è la Lega però di Serie A che è contraria e dice in chiaro non si può. Quindi si sta creando un pochino un contenzioso tra il ministro e la Lega Calcio. Intanto però adesso passiamo appunto alla politica italiana. Ho chiesto come governo italiano un più forte e veloce livello di coordinamento a livello europeo. Il virus non ha confini nazionali, è ormai evidente che c'è un problema che riguarda tutti i paesi europei, dobbiamo affrontarlo insieme. Per questo servono misure condivise e il più alto livello di coordinamento possibile. Effettivamente il ministro Speranza sta dicendo una cosa che dovrebbe diventare un'occasione per l'Unione Europea finalmente per riscattarsi, diciamo, da un lungo periodo così di immagine un po' appannata oppure anche un pochino negativa su tante cose, dimostrare che insomma non è solo un agglomerato burocratico pieno di rigidità, di imposizioni, ma in una situazione come questa, così come la politica italiana ha l'occasione per dimostrare che nei momenti di emergenza si unisce e rema nella stessa direzione per battere questo nemico comune, così potrebbe fare anche l'Unione Europea, un po' in ritardo devo dire. E intanto saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera a tutti. Siamo d'accordo, no, su questo, Barbara? Anche l'Unione Europea, diciamo, certo che siamo d'accordo. Ecco. Non come su Peter Gabriel, però no, su Peter Gabriel. Siamo d'accordo. Ritorniamo sui Genesis, che per me sono quelli di Phil Collins, per Barbara, che ha qualche anno in più. Peter Gabriel ha lasciato il 1975, è rimasta, diciamo, all'epoca così quasi medievale. Cara Barbara, però adesso andando su queste cose molto serie. Allora, parlo anche di Pink Floyd. Anche di Pink Floyd. No, adesso ci avvoltoliamo in una serie di discorsi. È chiaro che la musica è più divertente, ma noi invece dobbiamo attenerci alle questioni politiche di oggi. C'è in corso, cioè, al vaglio del Consiglio dei Ministri, questo piano straordinario per la sanità che prevede, fra le altre cose, 20.000 assunzioni tra medici, infermieri, insomma ospedale, operatori sanitari in genere, poi reparti temporanei, visto che appunto si sa che si rischia di avere una penuria di reparti di terapia intensiva con il fatto che ci sono tante persone che hanno bisogno di questo, la possibilità di requisire anche gli alberghi per ospitare le persone in quarantena, incentivi per la produzione di mascherine che sappiamo, insomma, nonostante siano state chieste all'Europa, all'Unione Europea, con questo meccanismo legato appunto alle emergenze, per il momento, insomma, da parte degli altri stati non sembra che ci sia una grande solidarietà. E poi ci sarà un ulteriore provvedimento a occuparsi degli aiuti alle imprese e famiglie, che arriverà però solo la prossima settimana, no Barbara? Allora sì, facciamo un attimo chiarezza. Il governo sta mettendo a punto questa sera le misure diciamo sanitarie, che però necessitano, pensiamo soltanto alle assunzioni, ma anche appunto, come dicevi, agli aiuti per la produzione delle mascherine, che saranno di fatto a fondo perduto, cioè non è che dovranno fare gare d'appalto, altro, cioè è proprio, sono interventi per dare immediata attuazione, no? Perché è chiaro che servono adesso. E, dicevo appunto, però questi provvedimenti, questo provvedimento in particolare sarà coperto attraverso le risorse che sono state, anzi saranno messe a disposizione la prossima settimana dal decreto, che dovrebbe contenere appunto misure capaci di sostenere un finanziamento fino a 7,5 miliardi di euro. Cosa sta succedendo? Succede che mercoledì il governo, la maggioranza, presenterà una risoluzione in Parlamento che andrà approvata a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi i rami del Parlamento, in cui chiederà uno scostamento aggiuntivo di 0,3% e che vale sostanzialmente appunto circa 7 miliardi, che poi diventano 7,5, ma non so spiegare adesso come. E quindi consentono appunto queste nuove spese che sono inserite in parte nel decreto di cui tu parlavi, quello della sanità, che non è detto che stasera venga approvato, potrebbe essere approvato domani, certo, lunedì, insomma, ecco, sappiamo che i decreti entrano immediatamente in vigore. Uh-huh. E però invece quest'altro provvedimento è quello che garantirà, quello di cui ti sto parlando, la copertura finanziaria, non solo per le misure sanitarie, ma come tu accennavi poco fa, anche per quelle che sono gli aiuti alle imprese e alle famiglie, perché è lì che troveremo gli aiuti per estendere il congedo parentale, per il babysitting, oppure per i voucher per poter consentire appunto ai genitori di avere le babysitter per i bambini, e così come gli aiuti per mantenere, sostenere la liquidità delle imprese, l'incremento dell'estensione della cassa integrazione. Questo è un tema enorme, perché certo, noi abbiamo tantissime aziende che in questo momento hanno la produzione ferma, ma i datori di lavoro devono pagare i dipendenti. Mm-hmm. E quindi chiaramente lo Stato in questo momento interviene per sostenere queste misure. Una cosa importante sarà anche vedere, al di là appunto degli stanziamenti finanziari e appunto di tutta questa serie di provvedimenti, anche se ci saranno, e immagino di sì, delle forti semplificazioni. Faccio un esempio, cioè la cassa integrazione, prima che dal momento della richiesta si arrivi al momento proprio in cui parte la cassa integrazione e viene erogata, passano solitamente mesi. Qui noi abbiamo un problema che la sopravvivenza delle imprese è legata a settimane, quindi è chiaro che bisognerà fare anche un intervento sul fronte della semplificazione normativa. Così come ho detto delle mascherine, che vengono date sostanzialmente direttamente questi soldi per produrre le mascherine e altri strumenti necessari appunto a mantenere, a preservare, diciamo, per contenere il virus, perché adesso l'emergenza, come stiamo vedendo, soprattutto ormai per il personale sanitario, sì, no? Si diceva prima anche col professor Massimo Galli. Sì. Senti, al di là, sì, di tutto questo, che ovviamente è importantissimo, c'è anche da sottolineare, oggi ci sono state anche le proposte del Centrodestra Unito, Salvini, Meloni e Tajani, per quanto riguarda Forza Italia e Berlusconi. Fino a ieri c'era stata un po' di guerra, diciamo, poi è arrivato non solo il discorso, il videomessaggio di Conte, diciamo così, alla nazione, ma soprattutto l'appello di Mattarella. No, l'appello di Mattarella, rifacciamo sentire un passaggio del Presidente della Repubblica. L'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente, con piena trasparenza e con completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. E poi ha detto anche Mattarella che bisogna seguire le istruzioni del governo, fidarsi delle misure del governo. Il governo, cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere, ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici ma importanti, per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. E i toni, da durissimi che erano più o meno fino a ieri, l'altro ieri, finalmente si sono moderati. Sentiamo per esempio Salvini, leader della Lega. Raccogliendo in pieno lo spirito auspicato dal Presidente della Repubblica Mattarella, già da giorni noi stavamo lavorando per una proposta comune, concreta, coerente di tutte le opposizioni del centrodestra, da offrire come idee, come rilancio, tutela e difesa del Paese. Quindi ieri i tecnici si sono riuniti per arrivare a un documento comune che consegneremo personalmente sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Repubblica. Allora Barbara, abbiamo ancora un minuto perché poi c'è la viabilità, siamo un po' in ritardo. Questo significa che poi prima o poi i nodi verranno al pettine, ricominceranno così le polemiche, gli attriti, sì, gli screzi, eccetera. Però a questo punto... Ieri diceva, per esempio, avevo la direttrice di Euromedia Research col suo sondaggio che diceva appunto la Ghisleri che hanno perso leggermente i partiti, i leader che in questi giorni hanno fatto più polemica, Salvini da una parte, anche se di poco, è anche lo stesso Italia Viva di Renzi. Quindi è il momento, insomma, di muoversi tutti nella stessa direzione compattamente, poi ci saranno altri momenti, no, per dividersi. Sì, diciamo che basta, cioè, credo che ognuno di noi in questi momenti, quando apre un giornale o accende un TG o un sito, quello che gli interessa sapere è che cosa succede, che cosa sta facendo il governo per aiutarci in questa emergenza. Delle liti di chi ha ragione, chi ha torto, se è cominciato prima uno o prima l'altro. A questo punto non ci interessano. Senti, sì. C'è una poetessa di Brescia, e questo si è diventato virale, la sua campagna ha cominciato ad attaccare bigliettini a Brescia, partita da lì, da Brescia, sì. Poi Milano, Bergamo, eccetera, con scritto tutto andrà bene. A questo punto è diventato virale su alberi, su saracinesche, sui muri delle scuole. È bello, no? Mi sembra. Tutto andrà bene, è come scrivere è al futuro. È molto bello. Io un incoraggiamento per tutti. Io sono convinta, sono ottimista, sono convinta che questa cosa così brutta che ci sta capitando ci farà alzare, e soprattutto, secondo me, farà alzare i ragazzi, i giovani, che da questo virus non sono praticamente colpiti o comunque in forma molto minore rispetto agli adulti. Ma se ne ricorderanno, e chissà che serva questa cosa per resettarsi un po'. Bene, il futuro è loro e anche nostro, perché tutto andrà bene. Grazie a Barbara Fiammeri. A presto, cara Barbara. Grazie a voi. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ci colleghiamo velocemente sia con la Francia, con Parigi, con Danilo Ceccarelli e poi con gli Stati Uniti con Riccardo Barlam, perché facciamo anche un po' un punto così sul mondo. Per esempio in Gran Bretagna i casi adesso sono 163 quelli conclamati, in Spagna 345 con 5 persone decedute, e poi c'è un'accelerazione dei casi di coronavirus in Francia e Germania, con Berlino che oggi ha ammesso di avere dei focolai interni al paese, interni alla Germania, ma c'è una crescita esponenziale soprattutto in Francia. Danilo Ceccarelli, ciao. Ciao Danilo. Buonasera. Soprattutto nell'est del paese, se non sbaglio, no? Esattamente, secondo quanto è stato annunciato durante il solito punto stampa di serale, la Francia è arrivata a 613 casi, 190 in più nel giro di 24 ore. Tra questi se ne contano 39 in rianimazione, e sono 9 le persone che dall'inizio della crisi hanno perso la vita. Ormai tutto il paese, tutte le regioni metropolitane sono state colpite dal fenomeno, così come 3 dipartimenti dell'oltremare. Stiamo parlando della Guyana, della Guadalupe e della Martinica. Questo secondo quanto annunciato dal primo ministro Edouard Philippe, che ha anche fatto sapere che per il momento il paese resta al secondo dei 3 stadi previsti per la crisi. Questo che significa? Significa che sebbene tutte le regioni siano interessate, il virus è concentrato in alcuni punti, alcuni cluster, e l'obiettivo è quello di evitare una diffusione incontrollata del virus. Per questo il governo ha previsto un rafforzamento delle misure che già erano state prese, come ad esempio quella che prevede, a partire da questo lunedì per i prossimi 15 giorni, la chiusura di scuole e asili nei dipartimenti dell'Oise, che si trova a nord di Parigi, e dell'Alto Reno, appunto, che è a est del paese, che sono i 2 principali focolai dove ci sono 110 e 51 casi rispettivamente. La Francia per il momento sta avanzando in modo graduale per non farsi trovare impreparata. Certo, questa impennata di 190 casi in un giorno preoccupa l'opinione pubblica, preoccupa anche il governo, che per il momento però non vuole passare alla terza fase della crisi. Comunque si tratta, il passaggio è inevitabile, lo ha confermato, certo. Lo hanno confermato anche l'autorità. Il passaggio avverrà al massimo tra 2 settimane, quando il virus circolerà liberamente su tutto il territorio. Grazie Danilo Ceccarelli. Poi tra l'altro oggi il commissario europeo all'emergenza Lenarci ci ha detto: guardiamo al modello Italia, perché poi devono prepararsi anche gli altri paesi. Riccardo Barlam dagli Stati Uniti, ciao Riccardo. Buonasera. Ci aggiorni brevemente anche da lì, mi sembra che ci siano proprio a New York 4.000 casi in quarantena, ma sono persone che si sono auto così messe in isolamento. Sì, però ci sono 33 casi, solo oggi 33 nuovi casi a New York, e in totale, secondo l'agenzia federale, i casi sono 164 in 20 stati, e 14 morti finora il conto delle vittime. La sensazione è che gli Stati Uniti siano davvero indietro, ci sono 6 stati che non sono ancora in grado di fare i test, i tamponi. E anche perché poi costano moltissimo, no? Tra l'altro l'abbiamo già costano detto, moltissimo, Riccardo, ma sono indietro perché non si capiva come farli, chi doveva pagare, se lo Stato, se il governo centrale e così via. Adesso hanno dato questi stanziamenti e così via. Oggi Trump visiterà l'agenzia federale che è in Georgia, la CDC, che dovrebbe coordinare tutta l'attività di lotta alla diffusione del virus. Insomma, ovviamente gli occhi sono puntati e ci sono anche tante polemiche per questi ritardi. Oggi ci sono anche le prime scene di panico, sinceramente, nei supermercati, quando qualcuno tossisce in un luogo pubblico, come succede lì in Italia da settimane, viene subito messo da parte, e anche gli americani hanno cominciato a svuotare i supermercati, come era successo a Milano qualche settimana fa. Sì, per fortuna è durato poco da noi. Gli articoli che vanno forte qui sono la carta igienica, l'alcol, i disinfettanti e le mascherine. Da mangiare gli americani di solito non hanno problemi, hanno problemi inversi di mangiare meno, e quindi quello che comprano di più in questi casi, più che la pasta come gli italiani, sono questi presidi, come ci hai detto. E poi c'è l'emergenza, scusate in un secondo. Questi 2500 persone in crociera che sono al largo di San Francisco, che non fanno evacuare perché c'è stato lì il primo caso di coronavirus che poi è deceduto, e quindi stanno facendo tutti i test, e questa nave che si chiama Princess Cruise a bordo 2500 persone che non vengono fatte avvicinare al porto di San Francisco, sono in quarantena, insomma è una situazione abbastanza delicata. Sì, ci sono varie navi da crociera, MSC, Costa, eccetera, che vedo anche qua, che non riescono ad attraccare. Adesso però il nostro Paolo Corazzoni di Trebi Meteo ci fa chiudere in bellezza con delle buone notizie, caro Paolo. Ma insomma, buonasera Roberta, sarà un weekend da inizio marzo, guarda, da quel punto di vista nulla di eccezionale. Pazzerello vuoi dire? Pazzerello? È brava, perché al nord un po' di sole lo vedremo come, ma al centro-sud domani sarà un continuo di acquazzoni temporali. Per fortuna domenica anche al centro-sud andrà un po' meglio, dai. Sei stato estremamente sintetico, hai sentito la sigla e non vuoi occupare altro spazio. Mi sono impaurito. Laconico, ma insomma sintetico, hai detto quella che è la sostanza che senti, conta. La prossima comunque, Roberta, aggiungo solo questo, piano piano torna l'alta pressione, temperatura in aumento, dai che la primavera è davvero vicina. Sì, almeno quello, guarda, vogliamo vedere sbocciare i fiori, anche se già sono sbocciati, cose belle, il sole, ci aggiorniamo, grazie Paolo Corazzoni di Trebi Meteo, ci aggiorniamo alle 22.